Monte Citorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, qui da Monte Citorio abbiamo con noi quest'oggi un rappresentante del Movimento 5 Stelle, un parlamentare molto importante che è Carla Ruocco, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, alla quale subito chiediamo, ha visto il governo finalmente tagliato lo stipendio ai ministri? Ai ministri, io aspettavo veramente una notizia ben più importante, che avesse tagliato lo stipendio a 1000 parlamentari tra Camera e Senato, invece si è limitato ai ministri. Beh, mi meraviglia questa fettina appena irrisoria, diciamo, dei costi della politica, perché noi per esempio in commissione speciale abbiamo presentato un emendamento proprio per la restituzione dei finanziamenti pubblici e la destinazione di finanziamenti pubblici ai partiti in un fondo rotativo destinato alle piccole e medie imprese, ed è stato boicottato dalla maggioranza PD-PDL in blocco. Il governo poi finalmente ha varato questo famoso decreto sull'IMU stop da giugno, però ad agosto, a fine agosto, hanno promesso che verrà ripensata tutta la tassazione sulla casa. Che cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle? Noi lo abbiamo chiamato il decreto del governo degli struzzi, perché è un modo per mettere la testa sotto la sabbia piuttosto che affrontare il problema. E oltretutto c'è un aspetto importantissimo: non l'ha rinviata per i capannoni industriali, oltre che per i terreni agricoli. Questo è folle in questo momento, perché le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, troveranno a pagare un'IMU addirittura maggiorata rispetto a quella dell'anno scorso, e quindi in questo momento di debolezza economica veramente non è una buona cosa. La CIG invece hanno trovato 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga, basterà? Ci accontentiamo di così poco, anche quello è un altro tappo che poi scoppierà a breve, purtroppo. Ci auguriamo che finalmente questo paese inizi a pensare con un respiro un po' più strategico e non sempre per tappi e toppe. Lei, che è il vicepresidente della Commissione Finanze, che cosa pensa? Che cosa bisogna fare un po' per le imprese? Perché il governo parla ovviamente di dare stimolo all'economia, però poi di fatto quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle? Venite sempre un po' accusati di protestare ma non proporre. Un alleggerimento fiscale, non parlo solo dell'IMU, che ovviamente come concetto noi la prima casa lo abbiamo come reddito di cittadinanza, sono quelle cose base, ma io parlo anche per esempio di alleggerimento fiscale per le imprese riguardo all'IRAP. L'IRAP è un'imposta folle che deve essere abolita, e sul breve periodo già bisogna lavorare sul costo del personale, che appunto è ricompreso nella base imponibile IRAP, che ovviamente è una cosa assolutamente fuori qualunque logica di produttività. Un governo che parla appunto di riduzione di cuneo fiscale deve provvedere assolutamente a questo. Ma ci sono tutta una serie di oneri burocratici pesantissimi per le imprese, che riguardano proprio il rapporto fisco-imprenditore, e quelli a costo zero si possono eliminare. Parlo per esempio anche, a parte appunto tutto il discorso della deburocratizzazione, come semplificazione voglio riportare la fatturazione elettronica e la firma digitale, che aiuterebbe non solo gli adempimenti degli imprenditori ma anche alla fine i controlli fiscali, che sarebbero più leggeri, e quindi in qualche modo lo Stato, invece di essere un ente impositore dall'alto, è rappresentato maggiormente come uno Stato più amico. Voi parlate di tagli, tagli, tagli, però c'è un po' sempre polemica, no? Per questo fatto della diaria, questo mal di pancia dei deputati, grillini, dei parlamentari che non se la volevano tagliare questa diaria. Come è andata a finire? Guardi, mal di pancia me l'hanno fatto venire in commissione bilancio quando non hanno voluto tagliare i costi della politica ai partiti. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Ribadisco che la diaria verrà restituita per la parte eccedente, quello che riguarda le spese che materialmente i parlamentari dovranno sostenere, che verranno rendicontate, messe in chiaro, e quindi quelli che hanno votato 5 Stelle, anche quelli che non hanno votato, vedranno e sceglieranno in maniera trasparente i loro rappresentanti, anche sulla base dell'economia che ognuno di noi ha saputo rispettare. Tutti siete d'accordo, perché si parla poi che c'è sempre questa fronda, un 30% pronto a lasciare Beppe Grillo e entrare magari nel gruppo. Gruppo misto. No, su questo voglio essere molto chiara. Innanzitutto siamo d'accordo, quindi il gruppo è compatto. Ahimè, per chi voglio dire spera sempre che questo movimento si dissolva, non ci dissolviamo. Imploda, imploda. Esploda, imploda, si dissolva come l'aspirina nell'acqua. No. Quello però che è la portata rivoluzionaria del Movimento 5 Stelle non è il fatto che magari all'interno di un gruppo ci possa essere un furbo, perché quello può capitare dovunque, ma che questo meccanismo che il Movimento ha messo in chiaro porti alla luce anche chi eventualmente volesse approfittare della situazione, e quindi i cittadini possono giudicarlo. Questa è il vero, la portata rivoluzionaria, non che siamo improvvisamente diventati tutti santi. Beppe Grillo ha detto che questo governo durerà fino all'autunno, ci ha messo 3 mesi per fare il decreto sull'IMU, fra un po' ci metterà 50 anni per fare una legislazione sulle piccole e medie imprese, ma insomma il Parlamento lavora troppo lentamente, lei che siede in Parlamento da 60 giorni all'incirca. Guardi, fa la domanda a una persona sbagliata. Io sono una che ha una tempistica estremamente veloce, quindi per me questo Parlamento veramente ha delle ere geologiche, per cui per i tempi miei io veramente forse sono veramente una persona particolarmente veloce sulle tempistiche, quindi sì, che cosa devo rispondere? Per me è folle questi tempi così dilatati. Basta pensare che non è stata fatta una legge elettorale in 5 anni, e quindi la situazione di stallo adesso, per esempio al Senato, è stata dettata anche dal fatto che non siamo ancora ancorati a questo porcellum che in 5 anni non hanno cambiato. Perché vi siete astenuti sul decreto per i debiti delle PA? Insomma, si danno i soldi di nuovo alle imprese. Volevamo sottolineare il fatto che i debiti dello Stato non ammontano a 40 miliardi, ma ammontano a non ben identificati 100 più o meno miliardi, che non sono neanche stati ben quantificati. Noi vorremmo che venissero pagati tutti e che si allentasse questa morsa, questa museruola europea che costringe addirittura uno Stato a dover legiferare per pagare dei debiti, crediti, dei certi liquidi ed esigibili. E questo per noi non è da Stato civile. Noi abbiamo chiesto che la materia venga rivista appunto in ordine del giorno nella Commissione Bilancio, che invece di 40 vengano pagati tutti i 90-100 miliardi e che appunto non avvenga più lo scempio che le imprese non vengano pagate a 30-60 giorni, ma che si crei un sistema civile di pagamento erariale, di pagamento alle imprese dei debiti puntuale. Ma Beppe Grillo è ancora il leader del Movimento 5 Stelle indiscusso, oppure c'è un distaccamento dei parlamentari dal proprio leader? No, non né l'uno né l'altro. Diciamo che Beppe Grillo è una persona che fa ragionare, questo è molto importante, ha sempre stimolato il pensiero, e questo è l'elemento veramente dirompente confliggente con qualunque forma di dittatura. Cioè, si vuole far passare a volte Grillo come una persona dittatoriale, ma una persona che apre il pensiero non può essere un dittatore, quindi proprio è assolutamente fuori del concetto. Ringraziamo Carla Ruocco, congratulazioni per essere stata eletta vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera. Grazie a voi.